4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. E ancora una volta buona serata, bentornati amici di Auto e Moto, i motori al centro dell'attenzione di Radio 24 ogni sabato, lo sapete, alle ore 21, per circa mezz'ora insieme agli amici di 4 ruote e 2 ruote. Due subito gli indirizzi e partiamo con una puntata ricchissima: www.radio24.it, su cui da lunedì troverete la presente puntata e anche tutto l'archivio, e poi 4ruote@radio24.it per giungere fino in redazione. Apriremo con una grande macchina, la Maserati Gran Turismo MC Concept, è stata presentata 3 giorni fa a Monza, c'eravamo noi, c'era anche Marco Perucca di 4 ruote che è già in linea. Buonasera Marco. Buonasera a te Roberto e agli ascoltatori. Poi parleremo della pericolosità dei cartelloni pubblicitari che spesso si trovano abusivamente in autostrada insieme ad Emilio De Leidi, e chiuderemo con un'inchiestona dedicata interamente al suono all'interno dell'abitacolo. Jaguar XF ha vinto un premio a questo proposito in Inghilterra e ne parleremo anche insieme a Sonus Faber, un'azienda tutta italiana di eccellenza in questo campo. Allora, intanto Marco Perucca, molti conoscono già la Maserati Gran Turismo che ha avuto un ottimo successo, linea nuova, design nuovo. È uscito il Gran Turismo S, che naturalmente andava a sottolineare le caratteristiche sportive. Dopo un'auto di serie adesso esce la MC Concept, che insomma ci ha incuriosito molto. Vuoi descrivere tu agli ascoltatori che cos'è? Possiamo considerarla proprio un laboratorio su ruote, almeno questa è nelle intenzioni della casa modenese. È praticamente la base è una Gran Turismo S, trasformata praticamente in auto da corsa, e sulla quale loro intendono per il momento, diciamo, sviluppare e testare tutti i varie possibili evoluzioni per quanto riguarda motore, cambio, assetto, aerodinamica e via così. Su questo c'è stato anche voglio dire un po' di mistero, perché le bocche sono molto cucite in Maserati, perché non è stato ben definito ufficialmente l'obiettivo di quest'auto, ma se l'hanno fatta, se tra l'altro hanno, come è stato dimostrato anche in pista, hanno impiegato mezzi, uomini, Bertolini per esempio l'ha provata insieme a noi, questo significa che le ambizioni sono alte, ne siamo felici, perché l'auto, oltre che bellissima, è davvero prestazionale. Sentiamo adesso insieme la scheda e poi torniamo per commentarla. Le competizioni rappresentano da sempre il banco di prova più severo per tutte le automobili. Ed è in circuito che Maserati ha deciso di esaltare l'innata verve sportiva della sua Maserati Gran Turismo S, dando vita alla Gran Turismo MC Concept. Gli interventi di design si sono limitati a rendere ancora più sportiva la linea della vettura, agendo sul frontale, sui parafanghi e aggiungendo prese d'aria ad hoc. Il tutto per migliorare la prestanza e l'efficienza aerodinamica, aumentando nel contempo la deportanza del profilo grazie allo spoiler posteriore. La base di questa MC Concept è la Gran Turismo S. Il propulsore V8 è stato rivisto nella mappatura ed è arrivato alla potenza di 450 cavalli. Inoltre, grazie a materiali racing e a una migliore distribuzione dei pesi, la MC è più leggera e presenta un autotelaio alleggerito e irrigidito grazie all'applicazione di un roll cage integrale saldato conforme alle norme di omologazione FIA. Ecco alcune caratteristiche. Nome: Maserati Gran Turismo MC Concept. Motore: benzina V8 da 4691 cc. Coppia: 510 Nm a 4750 giri. Rapporto peso-potenza 3,1 kg ogni cavallo di potenza. Serbatoio 100 litri con struttura di sicurezza in carbonio, omologato FIA. Freni: dischi in acciaio 380 mm anteriori, 313 mm posteriori. Ruote: 18 pollici e pneumatici slick. Peso: inferiore a 1400 kg. Abitacolo: postazione guida arretrata con sedile da competizione, cinture di sicurezza a 6 punti. Prezzo: intorno a 140.000 euro. Allora, queste erano le caratteristiche principali di questa meravigliosa MC Concept, e devo dire Andrea Bertolini ci ha fatto sognare. Come trasferirvi attraverso questo microfono le sensazioni di prendere le due Lesmo in pieno a Monza con un pilota vero accanto. Tra l'altro si giocherà di nuovo il mondiale, la prossima gara è in Argentina, il mondiale GT con la MC12. Marco Perucca, volevo chiederti questo: è derivata strettamente dalla Gran Turismo S, l'abbiamo abbiamo detto, però è molto alleggerita. Hai sentito tutte le deportanze che hanno ottenuto i designer, e c'è la gabbia omologata FIA all'interno, quindi con rollbar e tutta la struttura. Questo davvero fa presumere che l'auto abbia una vocazione fortemente corsaiola. Sì, sicuramente, cioè quello che c'è veramente da aggiungere è che l'auto è dimagrita non di qualche chilo, ma di quasi 600 kg, e quindi tutte le parti della carrozzeria, anche se assomigliano, cioè sono simili a quelle dell'auto di serie, in realtà sono realizzate in carbonio o in vetro resina, i vetri sono anch'essi in materiale plastico, la macchina è stata spogliata di tutto ovviamente, insomma, lavorando di fino sono arrivati a un peso di 1400 kg, addirittura inferiore, dicono che è molto molto interessante. Poi è stato ovviamente rifatto l'assetto, pneumatici slick, nuove geometrie, freni stile corsa, sono i classici impianti Brembo da corsa e via così, motore poche modifiche, ma sicuramente lo utilizzano per provare nuove mappature della centralina. Che hanno fatto salire la potenza fino a 450 cavalli, quelle mappature senza cambiare nulla nel motore, quindi non è male. Hai guidato poi la Gran Turismo S sul circuito di Monza, che impressione ti ha fatto? E con questo chiudiamo, Marco. Ma la Gran Turismo S è sicuramente una bellissima sportiva, molto molto più cattiva della Gran Turismo da cui deriva, vuoi per la maggior potenza del motore 4007, l'altro è un 4003, poi soprattutto per il cambio, che è di nuovo il classico elettroattuato Maserati, cambio corsa disposto al retrotreno, quindi motore davanti, cambio in blocco a retrotreno, una soluzione che permette una bella distribuzione dei pesi, praticamente equa sui due sali, anzi forse con qualcosa ancora di più dietro, e quindi un'eccellente guidabilità. Poi anche lì freni notevolmente potenziati, un assetto irrigidito e un rombo che è una cosa strepitosa. Credo il più bel rumore di auto di serie è quello del Maserati Gran Turismo S. C'è un tasto sport, quando lo si schiaccia si apre la seconda linea di scarico ed è musica per gli appassionati, ma la macchina è concreta davvero, bellissima da guidare. Molto bene, grazie davvero a Marco Perucca di Quattro Ruote, a prestissimo Marco, alla prossima prova. Ok, grazie, un saluto agli ascoltatori. E adesso passiamo alle autostrade, dai circuiti alle autostrade, dove la sicurezza deve essere assoluta, perché intorno a noi ci sono anche dei guidatori che non sono piloti, perché spesso c'è, non in autostrada ma sulle statali e provinciali, il doppio senso di marcia, dove ci si distrae con telefoni, radio e anche con cartelloni pubblicitari forse un po' tanto abusivi. Ne parliamo con Emilio De Leidi. Buonasera Emilio. Eccomi qua, buonasera a tutti, ciao Roberto. Allora, a te il compito di fare un'introduzione di un minuto, poi sentiamo le notizie del traffico e approfondiamo. Diremo, Emilio. Molto rapidamente, è un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti ed è una storia molto all'italiana. La pubblicità, la cartellonistica è vietata su tutte le autostrade, lungo tutte le autostrade e le strade extraurbane principali, le statali, le strade a grande percorrenza. Vediamo che questa legge è ampiamente disattesa, il codice della strada prevede delle sanzioni ben precise per i trasgressori, farle rispettare la normativa e applicare le sanzioni molto spesso è difficile. Noi abbiamo seguito il procedimento di alcuni interventi di Autostrade per l'Italia lungo l'autostrada 14 e proprio nei giorni scorsi un intervento sulla Vigevanese qui in provincia di Milano, da parte della provincia di Milano, sono gocce nel mare per una battaglia che è anche per il decoro ambientale. Ci stiamo occupando dei cartelloni pubblicitari abusivi, troppo pericolosi per chi guida soprattutto in autostrada. Emilio De Leidi, che cosa prevede esattamente a livello di sanzioni la normativa? Prevede una sanzione amministrativa, una multa per intenderci minima di 4.000 euro che deve pagare l'agenzia pubblicitaria che gestisce il cartellone o in mancanza di questo, se non si riesce a individuare, l'azienda che utilizza questo strumento pubblicitario. Naturalmente questo può far pensare che sia un disincentivo forte rispetto a questo tipo di utilizzo, invece la realtà è diversa. Sappiamo che ci sono un sacco di difficoltà per riuscire a notificare le sanzioni, individuare i reali proprietari dei terreni, far pagare le spese di rimozione come prevede la legge stessa a chi installa abusivamente il cartello, trucchetti tipo spostare magari il cartellone ogni tanto di qualche metro sì, cambiando proprietario del terreno e quindi rendendo vana la notifica della sanzione del provvedimento precedente, insomma una giungla di furbizie a cavallo tra il legale e l'illegale che però rende. Pensate che facendo delle telefonate in incognito per questa inchiesta abbiamo scoperto che ci vogliono dagli 8 ai 13, 14 mila euro per un più IVA per installare una pubblicità di questo genere, di questi soldi all'anno naturalmente, di questi soldi circa 1.000-1.500 vanno al proprietario del terreno, al contadino comunque proprietario. Pensate, allora facciamo due conti, se anche si prende qualche sanzione rara da 4.000 euro, sì, ma si dispone di qualche centinaio di cartelli lungo le autostrade, oppure se un contadino che ha un terreno incolto, che comunque oggi l'agricoltura rende poco, riesce a far mettere 4-5 cartelli tirando su 6-7-8 mila euro in un anno solo prestando lo spazio del proprio terreno, i conti sono presto fatti e spiega il dilagare di questo abusivismo al quale le società di gestione delle autostrade e gli enti proprietari delle strade fanno fatica di star dietro. Incredibile, monitoreremo anche noi con voi questo brutto fenomeno e speriamo che questo non porti davvero ad esagerazioni come è successo già in alcuni paesi in cui la selva dei cartelloni non fa altro che distrarre i guidatori. Grazie davvero per ora a Emilio Adelaide e a prestissimo. Grazie, saluto a te Roberto e a tutti gli ascoltatori. Allora, salutato Emilio Adelaide di Quattro Ruote, adesso ci occupiamo di un comunicato che è stato diffuso da Jaguar che mi è arrivato 3 giorni fa e mi ha fatto venire in mente l'inchiesta che vi propongo adesso. La notizia era che la XF, uno degli ultimi, se non l'ultimo modello di Jaguar, ha vinto un premio prestigioso di cui adesso Jaguar ci dirà tutto su l'impianto Hi-Fi che monta questa vettura già elegante di per sé. E allora mi sono chiesto, ma come funziona il suono in un abitacolo? Come si fa a costruire un impianto che in 2-3 metri quadri, anche meno, riesca a far sentire al meglio con tutti i pensati finestrini, parabrezza che rimbalzano il suono? E allora abbiamo messo insieme a Jaguar la Sonus Faber, un'azienda tutta italiana, un vanto del Made in Italy che è forse più conosciuta fuori che in Italia ed è assolutamente un'azienda di grande eccellenza, riconosciuta per la sua per le sue top prestazioni. L'ho voluta non del settore auto, anche se a breve entreranno nel settore auto, perché con loro parleremo di suono. Allora, prima il responsabile prodotto di Jaguar Italia, Sandro Pichi. Buonasera Sandro. Oh, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori di Radio 24. E buonasera anche al responsabile ricerca e sviluppo di Sonus Faber, di cui vi parlavo prima, Paolo Tezzon. Buonasera Tezzon. Buonasera a lei e anche buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora Sandro, brevemente la notizia, che cosa ha vinto e da parte di chi la Jaguar XF? È proprio recentissimo, come dicevi, il comunicato stampa, abbiamo appena ricevuto un premio dalla rivista inglese What Hi-Fi per le mani del loro direttore e l'impianto della nuova XF, che è una vettura lanciata appena a marzo quest'anno, è stato premiato come miglior impianto audio fornito da una casa costruttrice di automobili. Ecco, in questo caso l'impianto Hi-Fi ha un brand suo o l'avete brandizzato voi come spesso accade nelle case automobilistiche? No, per la prima volta Jaguar non marca con la marca dell'azienda gli impianti audio, ma si è legato a un consultore premium, quindi l'impianto è branded Bauer & Wilkins, che per la prima volta approccia il mondo dell'automobile. Ecco, questo anche per correttezza per chi si è occupato di sviluppare e ricercare in questo senso. Ci faccia capire, Sandro, una cosa secondo me importante. Che tipo di interesse ha il cliente Jaguar per la qualità dell'audio? Perché sa che ci sono persone più attente, altre meno attente a questo, alcuni sfegatati addirittura, altri. Ecco, l'XF ha già un target ben preciso di persona. Che tipo di importanza dà all'impianto Hi-Fi, agli optional eventuali? Certamente l'utente che privilegia l'acquisto di vetture di segmento premium è molto accorto anche nella qualità delle componenti della vettura e l'impianto audio sicuramente è il principale dei sistemi di intrattenimento a bordo, quindi l'attenzione è molto elevata. È chiaro che la tipologia di pubblico è molto varia e non è che tutti amino acquistare l'audio e poi l'automobile, l'automobile privilegia quindi la scelta del cliente, però l'impianto audio è un complemento fondamentale. Il nostro cliente cerca qualità anche di intrattenimento a bordo, piacere e quindi contemporaneamente apprezzare una buona musica è un elemento distintivo che la marca ha voluto inserire nell'ambito di questo nuovo prodotto, che è sicuramente innovativo sotto molti punti di vista. È chiaro, anche perché auto di questo tipo non possono certo avere un impianto audio che suoni male. Passiamo un attimo a Sonus Faber, poi Sandro resti lì, se riesco le faccio un'ultima domanda sul futuro. Presentiamo l'azienda, Paolo Tezzone, intanto, perché non tutti la conoscono, dicevo, a grande successo all'estero. Sonus Faber è un'azienda che produce diffusori acustici per l'alta fedeltà quindi ci occupiamo di musica, che è la nostra grande passione, da 25 anni. Abbiamo festeggiato il nostro 25esimo compleanno proprio lo scorso aprile. Voglio dire, siamo conosciuti nel mondo dell'alta fedeltà per aver portato una grande innovazione, il concepire il diffusore acustico alla stessa stregua di uno strumento musicale, cioè di qualcosa che principalmente deve regalare un'emozione. Siamo inoltre, voglio dire, molto conosciuti e apprezzati in tutti i paesi del lontano oriente, in Corea, Singapore, Hong Kong, in Cina, ed è una enorme soddisfazione per noi. La sede dell'azienda si trova a Vicenza, ai piedi dei Colli Iberici. E la produzione? Anche, ovviamente, si trova, c'è uno stabilimento dal quale ci stiamo sentendo che produce proprio gli altoparlanti, è chiaro. Senta Paolo, ci aiuti un po' a noi automobilisti, a noi amanti di motori che ci siamo occupati poche volte di suono nell'abitacolo. Ci fa capire intanto che cos'è il suono e cosa vuol dire il suono in un abitacolo che è un ambiente piccolissimo? La domanda è certamente complessa. Si definisce suono, quello che proviene al nostro apparato uditivo a seguito della messa in vibrazione di un oggetto. Cioè, il suono si può sempre far risalire ad un oggetto che vibra, che viene sollecitato e che entra in vibrazione. La corda di una chitarra o un altoparlante che si muove. Ovviamente, dei suoni che si producono in un ambiente così piccolo e così riflettente, pensiamo appunto alle proprietà acustiche che hanno i vetri, rendono la gestione della situazione un pochino complessa e bisogna porci una certa attenzione. Ci sono anche altri problemi, Paolo, per esempio l'auto resta spesso in esterni, no? Quindi sì. Mi viene in mente la temperatura bassa o addirittura quella alta che sappiamo raggiunge anche i 60, 65, 70 gradi sotto il sole ad agosto. Questo crea problemi per gli strumenti che sono all'interno, per voi che ne fate ricerca e sviluppo? Potenzialmente sì, ovviamente sì. C'è da dire una cosa, l'ambito in cui sono Sfavere esplica la sua attività utilizza degli altoparlanti che, se venissero montati in macchina, avrebbero dei problemi enormi. È proprio chiaro. Perché gli shock termici possono danneggiare per esempio i collanti con cui sono tenute insieme le sospensioni degli altoparlanti, eccetera. Tuttavia, gli altoparlanti che vengono normalmente equipaggiati in macchina sono soggetti a delle normative che li costringono a essere sottoposti a dei test molto severi proprio in questo senso. Ah, ecco. E quindi normalmente il loro funzionamento viene testato, pensate, a partire da meno 10 gradi sotto zero per arrivare fino a 80 gradi sopra lo zero. E in queste condizioni estremamente poco amichevoli sono costretti a doversi bene esprimere, a funzionare correttamente, pena appunto il loro non ingresso nel mercato direttamente. E ci mancherebbe altro. Bella questa cosa che non sapevo, cioè dell'esistenza di una normativa ad hoc. Grazie Paolo Tezzone, le chiedo fra poco il sito di riferimento per giungere fino a Sonos Faber. Sandro, chiudiamo con lei, ci fa assaporare il futuro? Cosa prevede Jaguar per quanto riguarda il suono e questo settore nell'abitacolo del domani? Come lo sentiremo lo stereo? Riesco a strapparle qualche anteprimo, qualche visualizzazione futura? Beh, grandi anteprime non posso darne, ma sicuramente l'attenzione della marca sarà ulteriormente a migliorare la qualità di bordo, quindi anche il suono e la tecnologia impiegata. Già oggi usiamo sistemi sofisticatissimi della gestione con touchscreen, a software che analizzano l'equalizzazione nell'ambito dell'abitacolo, appunto componentistica automotive, come diceva il collega di Sonos Faber, molto ben di altissima qualità sostanzialmente. Il futuro potrà prevedere ulteriori servizi, siamo passati già una piena connettività e integrazione con l'iPod e diciamo che il futuro potrebbe essere la possibilità di storage della musica in hard disk che sono installati a bordo delle vetture, questo per darle un esempio. Ecco, questo sarebbe anche molto utile, farebbe la felicità di molti che scaricherebbero sull'hard disk a bordo del veicolo quantità immani di musica. Sandro Picchi, la devo ringraziare, naturalmente il vostro sito è facilissimo da provare, jaguar.ito.com, immagino valgano tutte e due, grazie per ora e a prestissimo. Buona serata, grazie a voi. Paolo, senta, ci fa arrivare sul web fino a Sonos Faber? Che indirizzo dobbiamo cliccare? È molto semplice, www.sonosfaber.com. Molto bene, grazie anche a lei per il suo tempo, a prestissimo e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata. Con la voce di Paolo Tezzon termina anche la nostra trasmissione che torna puntuale alle ore 21 sabato prossimo. www.radio24.it e il nostro indirizzo email 4ruote@radio24.it. Fabio Cantadori mi ha fatto compagnia in regia, Roberto Rasia vi ha parlato al microfono. Grazie, buona domenica, ma soprattutto buona guida.